Devo essere sincero, sono dibattuto, ero dibattuto e rimango dibattuto tra fare la considerazione che poi ho deciso, mi sembra più opportuno, e lasciare l'altro, anche per rispetto nei confronti vostri, perché rispondere alla domanda che cosa è avvenuto nell'Eden, nel giardino dell'Eden, è complicato, anche perché parlare del peccato originale oggi non è la cosa più, c'è tutta un'evoluzione, no? E ora occorrerebbe tanto tempo. Ora ho deciso di stare più minutino dicendo qualcosa. A partire da il dialogo tra l'angelo Gabriele e la giovane Maria, un dialogo forte, intenso e anche un po' drammatico. A Maria viene proposto di diventare la generatrice, la madre, del Messia. Il turbamento, le rassicurazioni, dove l'idea dell'umanità e dell'eccezionalità dell'evento fa pensare. Il dialogo termina con l'accettazione della missione da parte della ragazza. Avvenga di me quello che hai detto. Due picchi di riflessione. Gli interrogativi che vengono suscitati sono molti. Faccio degli esempi. La conservazione dello stato virginale, il diventare madre, la presenza dello Spirito Santo, il generare il Figlio di Dio, la missione affidata, e si potrebbe allungare l'elenco. È difficile per la mentalità pratica, razionalistica, postmoderno soprattutto, comprendere così tanti misteri, parola non, messi insieme. Sembrano dei miti, sembrano delle fantasie, soprattutto se riferite a virtù o a valori caduti in disuso. La riservatezza, la sessualità dignitosa, l'umiltà, la responsabilità dell'educare, un servizio alla specie umana. Stiamo crescendo, mi pare, nella concretezza della cultura tecnologica. È anche un po' materialista, per cui è difficile entrare nei misteri, cioè cogliere quell'essenza, a quel sì di fede pronunciato da Maria. L'essere concepita innocente, poi c'è questa espressione senza peccato originale, mi mando un po' in tilt, e allora mettiamo da parentesi, vediamo se in qualche altra circostanza sarò pronto per parlare di questo. È il dono dell'Altissimo e la sua risposta altrettanto generosa, pulita, totale, all'invito di Dio. Per questo diventa il segno dell'umanità promessa. Maria in quel momento diventa il segno dell'umanità promessa, quella che avrà il suo compimento. Un secondo spunto. I pensieri e le riflessioni legate a questa festa sono molti. Scendo giù. Rispetto delle donne, il senso della gioia, della bellezza, della gratuità, delle fatiche quotidiane, della fedeltà, di essere fonte di generatività. Soprattutto il mondo occidentale ha sottolineato, forse oltre misura, la corporeità della donna, con il suo fascino, con la sua resistenza a divenire generatrice, a divenire madre. Da qui la difficoltà a compiere una vita pulita, generosa. Chiunque del resto desidera la bellezza e fisica e interiore. Maria allora diventa il simbolo di bellezza, che potremmo definire, a me piace questa espressione, innocente, innocente. E vengono in mente le infinite storie di donne pulite e oneste, ignorate, a volte dimenticate, quasi sempre silenziose, attente, sveglie. Onestà significa coraggio, intelligenza per resistere. Il mondo è pieno di donne coscienti che sono impegnate ogni giorno per rendere il mondo più visibile, più vivibile, e la storia più umana. Molte di esse portano pesi immani, dolori indescrivibili, eppure stanno al loro posto, con coraggio. Dicono il sì, come l'ha detto Maria. Mi stufo un pochino e vado giù. Vengono in mente a me, quando parlo di queste cose, quelle donne madri che dedicano la loro vita a un figlio o una figlia problematici, perché malati, perché disabili, perché disorientati, perché fuori di testa, non in grado di farcela da soli, eppure donne sfortunate, alcune donne sfortunate, capitemi bene, costrette a sopravvivere in una condizione che non avrebbero mai voluto, pubblicamente riprovevoli e peccatrici, forse interiormente più oneste. Sono molte le donne che vivono l'essenzialità della vita. Potremmo dire sono sante perché dedite a una grande missione, perché fedeli al compito della felicità propria e altrui. Sono le donne belle, tra virgolette, che ciascuno di noi vuole accanto a sé in ogni momento della propria vita. Verrà una donna e sarà lo splendore, della vera alba del mondo, come da te ideata, Signore. Immacolata la dice il popolo credente, piena di grazia lo dice l'arcangelo Gabriele, ma è la stessa cosa. Ciò che è avvenuto in Maria di Nazaret, prima cellula dell'umanità finalmente riuscita, può avvenire in ciascuno. Quindi questa è una festa che dice tutta la bellezza sepolta, nascosta, ombrosa che c'è in noi. L'immagine di Dio impressa in ciascuno di noi. E tutta la nostra esistenza dice anche la fatica tenace di liberare la bellezza che è in noi. Come quando il Creatore, quando vide che l'uomo e la donna erano veramente belli. La radice dell'umanità ce la portiamo dentro noi e siamo anche disponibili a dire sì, Signore, poi qualche volta andiamo per stare. Gloria a Dio nell'alto del cielo. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo.